treni la notte vivono di riflessi e improbabili amori, e le città sembrano tutte uguali. Vivono di riflessi e improbabili amori, e le città sembrano tutte uguali. E salivano i contrabbandieri, avventurieri con gli occhiali neri, le spie, labbra strette strette e le valigie piene di vendette. Segreti sotto alle sottane, faccendieri, facce molto strane, mercanti d'arte e di bestiame. E c'erano i commessi viaggiatori, i trafficanti, i rubacuori, agenti turchi decisamente maschi, e i disertori, occhi fuggiaschi. E i doganieri, facce molto scure, timbravano i passport e le scollature delle ballerine parigine con le borsette piene di bustine. E le escort con la scorta, porta borse con la mano morta, la scorta forse di bombe sporche e terroristi tirati a sorte, gli onorevoli pregiudicati con gli avvocati, facce d'avvocati, e con l'argento e coi diamanti, scompartimento dei latitanti. Vecchietta di Trieste parlava dell'imperatrice Sissi e gli sciavetti, noi sei cattivi e tu com'eri bella mentre dormivi. E c'erano gli ultimi spettri sopravvissuti in giro per l'Europa, e un medico viennese mi sussurrava: dai ragazzo, scopa. I treni la notte vivono di riflessi, di improbabili amori, e le città sembrano